sento che è più forte di me. Questa notte parla già da sé. E questa volta tu hai deciso anche per me. Ma di sicuro non so cosa fare. Ho un po' paura, ma vorrei provare. Un'emozione di più, dovrei lasciarmi andare. Perché tutto al più potresti farmi male tu, ma potrei farti del male.